Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, traduzione di Donatella Ziliotto, Annuska Palme Sanavio e Samantha K. Milton Knowles. Pippi va al circo. Era arrivato nella cittadina un circo e tutti i bambini correvano dalle loro mamme e dai loro papà implorando di poterci andare. Anche Tommy e Annika fecero lo stesso e il loro buon papà tirò subito fuori alcune belle corone d'argento. Con il denaro stretto in pugno si precipitarono in casa di Pippi, che si trovava sulla veranda col cavallo. Gli stava sistemando la coda in 1000 treccioline che guarniva via via con nastrini rossi. «Oggi è il suo compleanno, mi sa», disse Pippi, «per questo lo sto facendo bello». «Pippi», ansimò Tommy, che aveva fatto una gran corsa, «Pippi, vuoi venire al circo con noi?» «Posso venire con voi dove volete», rispose Pippi, «ma non so se posso venire con voi al cerchio, perché non so proprio cos'è. Fa male?» «Che matta che sei», disse Tommy. «No che non fa male, anzi è divertentissimo, cavalli, pagliacci e belle signore che camminano sulla fune». «Però costa», aggiunse Annika, e aprì il pugno per controllare se nel palmo ci fossero ancora una grande moneta luccicante da due corone e due pezzi da 50 centesimi. «Io sono ricca come un troll», disse Pippi. «Quindi direi che posso ben comprarmelo un cerchio. L'unica cosa che mi preoccupa è che non ho spazio per tanti cavalli. Quanto ai pagliacci e a quelle belle signore che dite, potrei ammucchiarli nella lavanderia, ma per i cavalli la vedo dura». «Sciocchina», disse Tommy, «mica devi comprarlo il circo. Si paga per guardare, capisci?» «Oh, mamma mia», strillò Pippi, e stringendo forte le palpebre, «si paga per guardare? E io che non faccio che fissare tutto il giorno questo o quello, chissà quanti soldi ho già speso!» Dopo un po' aprì cautamente un occhio e lo fece ruotare ripetutamente. «Costi quel che costi!» esclamò. «Non posso fare a meno di dare una guardatina!» Finalmente Tommy e Annika riuscirono a spiegare a Pippi che cosa fosse un circo e allora Pippi andò a tirar fuori alcune monete d'oro dalla valigia. Poi si mise il cappello, che era grande come la ruota di un mulino, e tutti e tre si incamminarono. Una gran folla si accalcava fuori dal tendone e davanti alla biglietteria si era formata una lunga coda. Finalmente giunse anche il turno di Pippi e lei infilò la testa nello sportello e chiese, fissando dritta in faccia la cara vecchia signora che stava lì, «Quanto si deve pagare per guardare te?» Ma la vecchia signora era straniera, quindi non capì cosa intendesse Pippi e rispose, «Pampina, costare 5 corone per primi posti, 3 corone per secondi posti e una corona per posti piedi». «Ah sì, disse Pippi. «Però mi devi promettere che camminerai sulla fune pure tu!» A questo punto intervenne Tommy e chiese per Pippi un biglietto per i secondi posti. Pippi tirò fuori una moneta d'oro che la vecchia osservò con diffidenza. Le diede anche un morso per vedere se era vera, ma alla fine si convinse che era davvero d'oro e Pippi ebbe il suo biglietto. Come resto, poi, ricevette una gran quantità di monete d'argento. «Che cosa me ne faccio di tutte queste orribili monetine bianche?» disse Pippi seccata. «Tientele, così posso guardarti due volte di seguito, magari dai posti piedi». Siccome Pippi non voleva assolutamente tenere i soldi del resto, la vecchia signora cambiò il suo biglietto con uno per i primi posti e diede anche a Tommy e ad Annika due primi posti senza che avessero bisogno di pagare la differenza. Così Pippi, Tommy e Annika si ritrovarono seduti in bellissime poltroncine rosse proprio a bordo pista. Tommy e Annika si voltavano continuamente a far cenni di saluto in direzione dei loro compagni di scuola che sedevano molto più indietro. «Che buffa tenda Lappone!» osservò Pippi guardandosi intorno stupita. «Ma gli è caduta della segatura sul pavimento, vedo. Non vorrei essere pignola, ma pare poco curato, ecco». Tommy spiegò allora a Pippi che in tutti i circhi si cosparge il terreno di segatura per far correre i cavalli più sicuri. Su una piattaforma sedeva la banda del circo, che all'improvviso cominciò a suonare una marcia tonante. Pippi batteva selvaggiamente le mani e saltava sulla poltroncina per la gioia. «Anche ascoltare costa?» chiese. «Oppure quello è gratis?» Proprio in quell'istante, il tendone dell'ingresso degli artisti si sollevò ed entrò di corsa il direttore del circo, in frac nero e con una frusta in mano. Insieme a lui fecero la loro comparsa anche 10 cavalli bianchi con pennacchi rossi in testa. Il direttore fece schioccare la frusta e i cavalli si misero a correre tutti intorno alla pista. Quando la fece schioccare per la seconda volta, i cavalli si arrestarono e posarono le zampe anteriori sulla sbarra che cingeva la pista. Uno si era fermato proprio di fronte ai bambini. Ad Annika non piaceva affatto trovarsi un cavallo così vicino e allora si ritrasse più che poté nella poltroncina. Pippi invece si piegò in avanti, sollevò una delle zampe del cavallo e gli disse: «Ciao, ti porto i saluti del mio cavallo. Anche lui festeggia oggi il suo compleanno, però ha i fiocchi sulla coda invece che in testa». Fortunatamente Pippi lasciò la zampa prima che il direttore del circo facesse schioccare la frusta un'altra volta, perché allora tutti i cavalli scesero dalla sbarra e ripresero a correre. Quando il numero fu finito, il direttore si inchinò educatamente e i cavalli uscirono di corsa. Un attimo dopo, il tendone si riaprì e apparve un cavallo nero come la pece, sul cui dorso stava ritta in piedi una bella signora vestita di seta verde. Il suo nome era Miss Carmencita, recitava il programma. Il cavallo trottava in cerchio sulla segatura e Miss Carmencita stava in piedi sul suo dorso, calma e sorridente. Proprio allora avvenne un fatto strano. Nell'istante in cui il cavallo passò davanti al posto di Pippi, qualcosa fendette l'aria sibilando, e questo qualcosa non era altro che Pippi in persona, la quale ora se ne stava in piedi sul dorso del cavallo dietro a Miss Carmencita. In un primo momento questa rimase talmente sbalordita che rischiò di cadere, poi si arrabbiò, cominciò ad agitare le mani all'indietro per tentare di spingere giù Pippi, ma senza alcun risultato. «Calma, calma!» disse Pippi. «Non sei mica l'unica che si vuole divertire, anch'io ho pagato, mi pare!» Allora Miss Carmencita cercò di saltar giù lei, ma neanche questo le riuscì perché Pippi la teneva stretta saldamente con le braccia intorno alla pancia. A questo punto il pubblico non riuscì più a trattenere le risate. Che spettacolo esilarante era quello della bella Miss Carmencita immobilizzata da una ragazzina dai capelli rossi che se ne stava ritta sul dorso del cavallo con le sue grandi scarpe e sembrava non aver fatto altro in vita sua che esibirsi in un circo. Il direttore del circo invece non rise affatto. Fece un cenno alle sue guardie vestite di rosso che si precipitarono a fermare il cavallo. «È già finito il numero?» esclamò Pippi delusa. «Proprio ora che ci divertivamo tanto!» «Maledetta pampina!» sibilò a denti stretti il direttore del circo. «Sciò! Sciò!» Pippi lo guardò addolorata. «Che cosa c'è adesso che non va?» chiese. «Perché sei arrabbiato con me? Credevo che fossimo qui per divertirci!» In un lampo scese dal cavallo e ritornò al suo posto. Ma subito dopo ecco arrivare due guardie forzute per buttarla fuori. L'afferrarono e tentarono di sollevarla, ma non ci riuscirono. Pippi se ne stava seduta assolutamente immobile e non c'era verso di smuoverla di un millimetro per quanto i due la tirassero con tutte le loro forze. Alla fine si strinsero nelle spalle e se ne andarono. Nel frattempo era iniziato il numero successivo. Si trattava di Miss Elvira, che doveva camminare sulla fune. Indossava un gonnellino di tulle rosa cipria e reggeva un ombrellino dello stesso colore. Si mise a correre sulla fune con passettini aggraziati, stendendo ogni tanto in fuori una gamba e facendo ogni sorta di evoluzioni. Era davvero molto graziosa. A un certo punto dimostrò di saper camminare perfino all'indietro su quella fune sottile. Arrivata alla piccola piattaforma posta all'estremità della fune, però, si voltò e si trovò di fronte Pippi. «Non te l'aspettavi, eh?» chiese Pippi entusiasta alla vista dell'espressione sbalordita di Miss Elvira. Miss Elvira saltò giù dalla corda senza proferir parola e andò a gettarsi al collo del direttore del circo, che era suo padre. Il direttore ripeté alle sue guardie l'ordine di buttare fuori Pippi. Questa volta ne mandò 5. Ma allora tutti gli spettatori del circo si misero a gridare «Lasciatela stare! Vogliamo vedere la ragazzina dai capelli rossi!» e cominciarono a pestare i piedi e a battere le mani. Pippi si avviò dunque di corsa sulla fune e l'arte di Miss Elvira si rivelò essere niente al confronto di quella di Pippi. Giunta a metà percorso, sollevò una gamba dritta in aria, in modo che la sua grande scarpa le formasse come un tetto sopra la testa. Poi piegò agilmente il piede, riuscendo persino a grattarsi dietro l'orecchio. Il direttore non era per nulla contento del fatto che Pippi si esibisse nel suo circo, anzi voleva sbarazzarsene. Quindi raggiunse furtivamente il dispositivo che teneva tesa la fune e lo allentò, pensando che in quel modo Pippi sarebbe certamente precipitata. E invece no, servendosi della fune come di un pendolo, avanti e indietro, Pippi si mise a dondolare sempre più in fretta, finché, preso lo slancio, fece un salto e andò a finire dritta in groppa al direttore del circo. Questi si prese un tale spavento che si mise a correre. «Questo sì che è un buffo cavallo», disse Pippi. «Ma perché non hai un pennacchio in testa?» A quel punto, però, Pippi ritenne che fosse giunto il momento di ritornare da Tommy e Annika. Smontò dunque dal direttore del circo e andò a sedersi. Il numero successivo avrebbe dovuto iniziare immediatamente, ma ci fu un breve intervallo perché il direttore sentì il bisogno di uscire a bere un bicchiere d'acqua e a pettinarsi i capelli. Rientrò poco dopo, si inchinò al pubblico e disse: «Signore e signori, fra un momento vedrete meraviglia di meraviglie. L'uomo più forte di Monto, Adolf lo Forte, che fino a questo momento nessuno vinto ha. Prego, signore e signori, ecco che apparisce Adolf lo Forte». In quel momento, infatti, entrava nella pista a grandi passi un uomo gigantesco. Indossava una maglia color carne e aveva una pelle di leopardo intorno al ventre. Si inchinò al pubblico con aria estremamente soddisfatta. «Guardate i suoi muscoli!» esclamò il direttore del circo dando dei colpetti sulle braccia di Adolf il Forte, dove i muscoli rigonfi sotto la pelle sembravano sfere sul punto di esplodere. «E adesso, signore e signori, vengo fuori con formidabile proposta. Chi fra voi osare sfidare Adolf lo Forte? Chi osare tentare di battere uomo più forte di mondo? 100 corone pagherò a quello che sapere sconfiggere Adolf lo Forte. 100 corone, meditare, signore e signori. Prego, qualcuno tentare?» Ma nessuno si offrì. «Che cosa ha detto?» si informò Pippi. «E perché parla arabo?» «Ha detto che darà 100 corone a chiunque sia capace di battere quello maccione», spiegò Tommy. «Io ci riesco», disse Pippi. «Ma mi dispiace batterlo, ha un'aria così gentile». «Ma dai, mica riusciresti a batterlo», disse Annika. «Dopotutto è l'uomo più forte del mondo». «Uomo può anche darsi», ribatté Pippi. «Ma io sono la bambina più forte del mondo, pensa un po'». Intanto Adolf il Forte stava sollevando grandi palle di ferro e piegando in due spesse sbarre pure di ferro per dimostrare quanto era forte. «Allora, gentili spettatori!» gridò ancora il direttore del circo. «Davvero nessuno vuole guadagnare 100 corone? Voi veramente costringete me a tenerle?» disse sventolando un biglietto da 100. «Ah, questo veramente no!» esclamò Pippi ed entrò nella pista scavalcando la sbarra. Quando la vide, il direttore del circo divenne letteralmente furibondo. «Sciò, sciò, sparire! Niente vederti!» sibilò tra i denti. «Ma perché sei sempre così scortese con me?» lo rimproverò Pippi. «Voglio soltanto battermi con Adolf il Forte!» «Non posto per scherzare questo!» disse il direttore del circo. «Sciò, sciò, prima che Adolf lo Forte udisce tua presa di giro!» Ma Pippi sorpassò il direttore e andò da Adolf il Forte. Gli afferrò la manona e gliela strinse calorosamente. «Allora, vogliamo fare un po' botte noi due?» gli disse. Adolf il Forte la guardò senza capirci un accidente. «Fra un minuto attacco!» lo avvertì Pippi. E infatti attaccò. Afferrò saldamente Adolf il Forte per la vita e senza che nessuno avesse capito come, lo mise al tappeto. Adolf il Forte si rialzò di colpo tutto rosso in viso. «Forza Pippi!» gridarono Tommy e Annika. A sentirla chiamare così, anche gli altri spettatori gridarono «Forza Pippi!». Il direttore del circo stava seduto sulla sbarra, torcendosi le mani. Era arrabbiato. Ma Adolf il Forte era ancora più arrabbiato. Mai in tutta la sua carriera gli era accaduto qualcosa di più umiliante. Adesso avrebbe fatto vedere lui a quella ragazzina dai capelli rossi che razza d'uomo fosse Adolf il Forte. Le si avventò contro e la afferrò per la vita. Ma Pippi rimase immobile, come una roccia. «So che puoi fare molto di più», gli disse per sollevargli il morale. Poi però si divincolò dalla sua presa e un attimo dopo Adolf il Forte era nuovamente al tappeto con Pippi accanto che aspettava pazientemente. Ma non dovette aspettare a lungo. Con un ruggito l'uomo si rialzò e le piombò addosso. «Tiddili pum e piddili dei», canterellò Pippi. Il pubblico batteva i piedi e tutti lanciavano i berretti in aria gridando «Forza Pippi!». Quando Adolf il Forte partì all'attacco per la terza volta, Pippi lo sollevò in aria e lo portò in giro per la pista, reggendolo con le braccia tese. Poi lo mise di nuovo al tappeto e lo immobilizzò. «Adesso, tesoro mio, mi sembra sia il caso di finirla con questa storia», disse. «Tanto più divertente di così non può diventare». «Pippi ha vinto! Pippi ha vinto!» si gridava da ogni parte del circo. Adolf il Forte si dileguò più in fretta che poté. E il direttore fu costretto a farsi avanti e a consegnare il biglietto da 100 corone a Pippi, benché sembrasse invece sul punto di sbranarla. «Prego, signorina», disse. «Prego, 100 corone. «Che me ne faccio di questo pezzo di carta?» disse Pippi sprezzante. «Tienilo tu per friggerci le aringhe, se vuoi». E se ne ritornò al suo posto. «Ma quanto dura questo cerchio?» disse rivolta a Tommy e Annika. «Un pisolino non guasta mai, però svegliatemi se avete ancora bisogno di me». Detto ciò, si abbandonò contro la spalliera della poltroncina e si addormentò di botto. E così rimase distesa a russare mentre pagliacci, mangiaspade, uomini serpenti si esibivano davanti a Tommy, Annika e tutto il resto del pubblico. «Secondo me comunque la più brava è stata Pippi», sussurrò Tommy ad Annika. Pippi e i ladri. Dopo l'esibizione di Pippi al circo, non c'era nessuno nella cittadina che ignorasse la sua tremenda forza. Ne scrissero perfino i giornali, ma chi abitava lontano naturalmente non sapeva chi fosse Pippi. In una buia sera d'autunno, due vagabondi si trovarono a passare davanti a Villa Villacolle. Si trattava di due terribili ladri che si erano messi in cammino per il paese in cerca di qualcosa da rubare. Videro le finestre di Villa Villacolle illuminate e decisero di entrare a chiedere un panino. Quella sera Pippi aveva rovesciato tutte le sue monete d'oro sul pavimento e se ne stava seduta a contarle. Non che sapesse contare proprio bene, ma ogni tanto lo faceva lo stesso, così, per amore dell'ordine. 75, 76, 77, 78, 79, 70, 10, 70, 11, 70, 12, 70, 13, 70, 17... «Uffa, sono tutta settantosa! Accidenti, ci devono pure essere ancora degli altri numeri da cui attingere! Ah sì, ora mi ricordo! 104, 1000! Proprio un bel gruzzoletto!» Proprio allora bussarono alla porta. «Avanti o indietro, come preferite!» gridò Pippi. «Io non obbligo nessuno!» La porta si aprì e i due vagabondi entrarono. Figuratevi se non fecero tanto d'occhi quando videro una ragazzina dai capelli rossi seduta sul pavimento sola soletta a contare monete. «Sei sola in casa?» chiesero astutamente. «Ma che?» rispose Pippi. «C'è anche il signor Nilsson!» I ladri non potevano sapere che il signor Nilsson non era che una scimmietta rannicchiata a dormire nel suo lettino dipinto di verde con una copertina da bambole sulla pancia. Pensarono che fosse il padrone di casa a chiamarsi Nilsson e si scambiarono un'occhiata d'intesa. «È meglio ripassare più tardi», significava quell'occhiata, ma a Pippi dissero «eravamo entrati soltanto per sapere che cosa segna l'orologio». Erano talmente eccitati che si dimenticarono completamente del panino. «Grandi e grossi come siete, non sapete che cosa segna l'orologio?» si meravigliò Pippi. «Ma come siete stati educati? Segna le ore, naturalmente. Scommetto che non sapete nemmeno che cosa sia un orologio. È un piccolo arnese tondo che fa tic-tac e che cammina e cammina ma non arriva mai alla porta». «Se avete altri indovinelli da sottopormi, sparate pure», aggiunse incoraggiante. I vagabondi pensarono che Pippi fosse troppo piccola per capire il funzionamento dell'orologio, quindi si voltarono e uscirono senza una parola. «Beh, non pretendevo certo un grazie, ma almeno potevate salutare prima di farmi vedere che voi, a differenza dell'orologio, alla porta ci sapete arrivare», commentò Pippi. «Neanche un briciolo di educazione». «Andate pure», aggiunse, per poi concentrarsi di nuovo sulle monete. Una volta usciti, i vagabondi si stropicciarono le mani dalla gioia. «Hai visto quanti soldi? Santi numi!» esclamò uno dei due. «Sì, a volte si ha fortuna», disse l'altro. «Dobbiamo solo aspettare che la ragazzina e quel Nilsson si siano addormentati. Poi ci introduciamo nella casa e mettiamo le mani sul malloppo». Si sedettero ad aspettare sotto una quercia del giardino. Cadeva una pioggerella incessante e per giunta avevano una fame da lupi, quindi aspettare non era proprio piacevole. Ciò nonostante, il pensiero di quel mucchio di denaro li teneva di buon umore. A una si spensero le luci nelle ville vicine, ma Villa Villacolle rimaneva illuminata. Infatti Pippi stava imparando a ballare la polca e non intendeva andare a dormire finché non fosse stata sicura di averla imparata alla perfezione. Alla fine però il buio calò anche su Villa Villacolle. I ladri attesero ancora parecchio per essere proprio certi che il signor Nilsson si fosse addormentato, ma infine si avvicinarono furtivamente all'ingresso della cucina e si accinsero ad aprire la porta con i loro arnesi da scassinatori. Uno di loro, che fra l'altro si chiamava Blom, per pura combinazione provò la maniglia e la porta non era affatto chiusa a chiave. «La gente non è mica normale», mormorò all'orecchio del compagno. «Pensa, la porta è aperta!» «Tanto meglio per noi», rispose l'altro, un tipaccio dai capelli neri che veniva chiamato Tuono Carlson da quelli che lo conoscevano bene. Poi accese la sua torcia elettrica e i due ladri entrarono di soppiatto nella cucina. Era deserta. Accanto c'era la stanza da letto di Pippi e lì si trovava anche il lettino da bambole del signor Nilsson. Tuono Carlson aprì la porta e gettò con cautela uno sguardo nella camera. Tutto sembrava quieto e silenzioso, quindi fece vagare il raggio della sua torcia elettrica per la stanza. Quando il fascio di luce raggiunse il letto di Pippi, i due vagabondi con grande meraviglia non videro altro che un paio di piedi posati sul cuscino. Come al solito, Pippi teneva la testa sotto le coperte in fondo al letto. «Questa deve essere la bambina», sussurrò Tuono Carlson a Blom. «Dorme della grossa. Ma dove credi che sia quel Nilsson?» «Il signor Nilsson, prego», fece notare la voce tranquilla di Pippi da sotto le coperte. «Il signor Nilsson sta dormendo nel lettino verde delle bambole». I vagabondi si presero un tale spavento che stavano per precipitarsi fuori. Poi però rifletterono su quanto aveva detto Pippi, cioè che il signor Nilsson stava dormendo in un lettino delle bambole. Alla luce della torcia videro infatti il lettino verde e la scimmietta che vi dormiva. Tuono Carlson non riuscì a trattenere le risate. «Blom!» esclamò. «Il signor Nilsson è una scimmia!» «E che cosa credevi che fosse?» disse la voce calma di Pippi sotto le coperte. «Un tagliaerba?» «I tuoi genitori non sono in casa?» si informò Blom. «No», disse Pippi. «Sono via, via del tutto». Tuono Carlson e Blom ne furono così felici che si misero a ridacchiare come pazzi. «Stammi a sentire, bambina cara», disse Tuono Carlson. «Esci da lì sotto, così possiamo fare quattro chiacchiere». «No, ora dormo», rispose Pippi. «Ma se si tratta ancora di indovinelli, intanto ve ne faccio uno io. Qual è quell'orologio che cammina, cammina, ma non arriva mai alla porta?» A questo punto Blom sollevò risolutamente la coperta di Pippi. «Sai ballare la polca?» gli chiese allora Pippi guardandolo seriamente negli occhi. «Perché io sì». «Fai troppe domande», disse Tuono Carlson. «Possiamo farti una domanda anche noi? Per esempio, dove tieni i soldi che erano per terra poco fa?» «Nella valigia, sopra quell'armadio», rispose Pippi in tutta sincerità. Tuono Carlson e Blom sogghignarono. «Tesoro, spero che tu non abbia nulla in contrario se la prendiamo», disse Tuono Carlson. «Per carità», rispose Pippi, «proprio nulla». Allora Blom andò all'armadio e tirò giù la valigia. «Tesoro, spero che tu non abbia nulla in contrario se me la riprendo», disse Pippi scendendo dal letto e raggiungendo Blom. Blom non capì bene come, ma in un battibaleno la valigia fu in mano a Pippi. «Non facciamo scherzi», si infuriò Tuono Carlson. «Qua la valigia». Afferrò con forza Pippi per un braccio e cercò quindi di impossessarsi del sospirato bottino. «Scherza su e scherza giù», canterellò Pippi. E poi sollevò Tuono Carlson di peso e lo posò sull'armadio. Un attimo dopo vi si ritrovò seduto anche Blom. A questo punto i due vagabondi cominciarono ad aver paura. Capirono che Pippi non era una bambina come le altre, ma la valigia li attirava talmente tanto da far dimenticare loro la paura. «Ora, Blom!» gridò improvvisamente Tuono Carlson e tutti e due balzarono dall'armadio addosso a Pippi che teneva in mano la valigia. Ma Pippi li respinse con l'indice ed essi si ritrovarono seduti nei due angoli opposti della stanza. Inoltre, prima che avessero il tempo di rialzarsi, Pippi aveva tirato fuori una corda e alla velocità del pensiero aveva legato ben strette le gambe e le braccia ai due ladri. Ora sì che era tutta un'altra musica. «Gentilissima, cara signorina, voglia scusarci, stavamo solo scherzando», implorò Tuono Carlson. «Non ci faccia del male, siamo solo due poveri, disgraziati vagabondi entrati qui per chiedere un tozzo di pane». Blom cominciò persino a versare qualche lacrimuccia. Pippi, riposta per benino la valigia sull'armadio, si rivolse ai suoi prigionieri. «Qualcuno di voi sa ballare la polca?» «Ma, boh», rispose Tuono Carlson. «Tutti e due la sappiamo ballare, immagino». «Che bello!» esclamò Pippi battendo le mani. «Vi va di ballare un po'? Vedete, io ho appena imparato». «Sì, sì, sì, certo», acconsentì Tuono Carlson, leggermente confuso. Allora Pippi prese un paio di grosse forbici e tagliò la corda che teneva legati i suoi ospiti. «Però non abbiamo la musica», osservò Pippi perplessa. Poi le venne un'idea. «Tu sai suonare il pettine?» domandò a Blom. «Così io ballo con quello là», e indicò Tuono Carlson. Sì, certo, Blom sapeva suonare il pettine e lo fece con tale entusiasmo da far rintronare tutta la casa. Il signor Nilsson si svegliò e si rizzò a sedere sul letto tutto intontito, giusto in tempo per vedere Pippi che volteggiava con Tuono Carlson. Era seria come se si trovasse a un funerale e ballava con un'energia tale che sembrava fosse questione di vita o di morte. Alla fine Blom non volle più suonare il pettine perché, diceva, gli faceva un gran solletico alle labbra. E Tuono Carlson, che aveva girovagato per le strade tutto il giorno, cominciò ad avvertire una certa stanchezza alle gambe. «Vi prego, miei cari, ancora un minutino solo!» implorò Pippi continuando a ballare. E Blom e Tuono Carlson non poterono fare altro che continuare. Alle 3 del mattino Pippi disse «Oh, potrei andare avanti fino a giovedì, ma forse voi sarete stanchi e avrete fame!» Così era, infatti, benché i due non osassero confessarlo. Allora Pippi tirò fuori dalla dispensa pane, formaggio, burro, prosciutto, arrosto freddo e latte e tutti e tre si misero a sedere intorno al tavolo della cucina e mangiarono finché non furono tondi come barilotti. A un certo punto Pippi si versò un po' di latte in un orecchio. «Fa bene per l'otite», disse. «Poverina, ti è venuta l'otite?» chiese Blom. «No», disse Pippi, «ma potrebbe sempre venirmi». Alla fine i due vagabondi si alzarono, ringraziarono molto per lo spuntino e cominciarono a congedarsi. «Che bello che siete venuti!» «Ma dovete proprio andarvene?» chiese Pippi in tono dispiaciuto. «Non ho mai visto anima viva ballare come te, porchetto mio di zucchero!» disse a Tuono Carlson. «E tu devi esercitarti assiduamente a suonare il pettine!» disse a Blom. «Così non ti farà più il solletico!» I due ladri erano già all'ingresso quando Pippi li raggiunse come un razzo e consegnò a ciascuno una moneta d'oro. «Ve la siete proprio guadagnata», disse. Valentina Carnelutti ha letto Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Regia di Luigi Iavarone. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma di Rai Radio 3.